Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, nelle settimane scorse abbiamo parlato di due temi che sono centrali nel dibattito politico e che lo rimarranno per lungo tempo, anche in vista delle elezioni dell'anno prossimo, e cioè Europa e Mezzogiorno. Questa sera ne affrontiamo un altro di questi temi caldi, scottanti, sui quali si gioca il futuro del nostro paese e anche delle più giovani generazioni, anche per le conseguenze che questo tema può avere su un mercato, quello del lavoro, che è in completa rivoluzione. Insomma, parlo dell'università, di cui si parla spesso anche sui giornali, sui media, magari sotto l'impressione di notizie di cronaca, come la proposta per adesso fallita dell'Università degli Studi di Milano di prevedere il numero chiuso anche per le facoltà umanistico. Ma l'argomento, al di là appunto della cronaca, è strategico e meriterebbe di essere affrontato cercando di cogliere non gli aspetti contingenti ma quelli di lungo periodo, quelli strategici. È quello che cercano di fare tre studiosi: Giliberto Capano, che è un politologo all'Università di Bologna e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Marino Regini, che invece insegna sociologia economica all'Università degli Studi di Milano, e Matteo Turri, che è un economista che ha insegnato all'Università degli Studi di Milano anch'egli. Hanno scritto Salvare l'Università Italiana, oltre i miti e i tabù, è pubblicato dal Mulino, 166 pagine, 16 euro. Come recita il sottotitolo e dimostra anche la dimensione del volume, non troppo lunga, il libro è agile e si rivolge a tutti, non è solo per gli iniziati, ma per tutti i cittadini che possono qui capire quanto sia importante questo tema, quanto gravi siano stati molti errori commessi in passato e quali siano le prospettive dell'università italiana. Molti gli aspetti che all'estero stanno dominando il dibattito, e purtroppo questi aspetti da noi spesso diventano appunto miti o tabù da respingere pregiudizialmente o accogliere acriticamente. Per esempio, ci sono alcune parole come mercato, competizione, gestione manageriale, eccellenza, merito, valutazione, che per un gruppo di professori, quelli magari di ispirazione più liberista, sono delle autentiche ancore di salvezza, e per i professori avversari, quelli che hanno un orientamento più di sinistra, invece sono delle parole da avversare assolutamente. Il libro appunto fotografa quindi questa situazione, esamina le colpe che distribuisce equamente tra politica e accademia, e le parole appunto, quelle che ho citato poco fa, che diventano fonte di grande scontro anche ideologico. Ma non tutto è perduto, gli autori indicano delle vie d'uscita che non richiedono svolte epocali, delle riforme ciclopiche, ma che richiederebbero dei semplici o apparentemente semplici interventi che potrebbero rappresentare l'avvio di profondi cambiamenti. E di questo parliamo adesso con uno degli autori, Giliberto Capano. Buonasera a Giliberto Capano. Buonasera. Giliberto Capano, nel libro che avete scritto sull'università, voi iniziate elencando quelle che sono le manifestazioni del declino dell'università italiana e anche le cause principali. Quali sono i fenomeni più gravi che secondo voi si sono manifestati in questi ultimi anni? Allora, premesso che il sistema italiano è un sistema che comunque sia rende qualche cosa al sistema, è chiaro che non essendo stato nel corso degli ultimi 40 anni governato nel modo più appropriato, ha sedimentato una serie di problemi il cui esito finale è quello che vediamo. Siamo il paese europeo che ha il minor numero di laureati, siamo il paese europeo in cui quando ci si laurea sempre con un numero di anni superiore a quello necessario, ed è un paese in cui sostanzialmente il numero di persone che riescono a iscriversi all'università e a fare l'università è inferiore a quello che dovrebbe essere in un paese democratico. E quindi è chiaro che vi è un serio problema strutturale, laddove tutti sappiamo che avere una percentuale elevata di popolazione con un'istruzione superiore elevata rappresenta una un fattore rilevante per lo sviluppo economico, culturale, per il futuro di un paese. Quindi diciamo che è una situazione estremamente complessa che non è stata aggredita nel modo necessario da tutte le riforme che sono state fatte negli ultimi 40 anni e che non è stata aggredita nemmeno dalle riforme che si sarebbero dovute fare, che non si sono fatte. E qui veniamo, a proposito di riforme, al capitolo sulle colpe. Voi segnalate le colpe innanzitutto della politica e anche quelle dell'accademia. E appunto tra le colpe della politica ci sono le riforme mancate, le riforme velleitarie, le riforme fatte male, le riforme discusse o discutibili, per esempio come quella del 3+2. Ecco, come mai si è manifestata questa debolezza così accentuata in Italia della politica sul tema dell'università, secondo voi? Allora, premesso che in Italia si disegnano male le riforme anche in altri settori di politica pubblica, non solo nella politica universitaria, in Italia rispetto all'università ci sono un paio di fattori che la differenziano dagli altri paesi. Ad esempio, l'università non viene considerata, l'istruzione superiore, qualcosa di importante dal punto di vista sociale, è considerato poco rilevante socialmente, questo la politica lo percepisce e quindi, come dire, non investe sufficientemente, non rischia sufficientemente dal punto di vista politico sull'università, proprio perché vi è questa diffusa percezione nella società italiana che l'università non sia importante, perché tanto il lavoro si trova sulla base non di quello che sai, ma sulle base delle relazioni familiari o personali che hai, e quindi da questo punto di vista la politica ha avuto un disincentivo strutturale nell'occuparsi di università. Dopodiché, proprio perché non ha avuto grandi incentivi, quando doveva fare il suo mestiere lo ha fatto appoggiandosi ad idee o a soluzioni che in qualche modo non attaccassero davvero i problemi, a volte stando dietro i sindacati, a volte stando dietro alle corporazioni accademiche e via dicendo. Quindi si è creata questa situazione abbastanza imbarazzante. Noi cerchiamo anche di mostrarlo nel libro, che se uno va a guardare i programmi elettorali dei partiti politici nell'era della cosiddetta Seconda Repubblica, quando ci sono dei programmi elettorali veri, quello che viene scritto sull'università è o imbarazzante dal punto di vista proprio del contenuto, è estremamente populista. Noi abbiamo fatto una comparazione nel libro dei programmi elettorali delle ultime due elezioni politiche tra la Casa della Libertà, il Movimento 5 Stelle quando ha corso e il Partito Democratico, e si possono vedere moltissime cose, ad esempio, in comune, si possono vedere molte idee che non potrebbero funzionare, eccetera, eccetera. Quindi direi che la politica è massimamente responsabile dello stato della situazione dell'università italiana. Non è la sola, perché come lei ha detto, noi non abbiamo risparmiato colpe a nessuno, diciamo. Uno dei grandi miti che pare aver fallito delle riforme degli ultimi anni è stato quello dell'autonomia concessa all'università, che si pensava potesse essere un punto di snodo importante per riformarle. Ecco, come mai l'autonomia ha fallito in questo senso? In Italia c'è una strana concezione dell'autonomia, non solo nelle politiche universitarie, in generale, no? Si pensa che l'autonomia sia una specie di libera tutti. L'autonomia non vuol dire indipendenza, l'autonomia è una proprietà delle istituzioni universitarie che viene data dallo Stato, che fino a prova contraria è il principale finanziatore, assumendo che le università autonome possano decidere per il meglio sulla base di certi presupposti. Il problema qual è? Che l'autonomia funziona se chi te la dà, l'autonomia, ti controlla, ti monitora, ti indirizza. E questo è il problema dell'autonomia universitaria italiana, che non c'è una dinamica di sistema con un centro del sistema, il governo, il ministero, che controlla, indirizza quello che fanno le università, e quindi con delle università che, sentendosi monitorate, cercano di gestire la loro autonomia in un modo responsabile, per capirci. Dire che le università possono decidere liberamente che cosa insegnare, in realtà non è vero, sarebbe una bellissima cosa se però fossero incentivate a insegnare quello che opportuno venga insegnato a seconda del periodo storico, a seconda del contesto, eccetera, eccetera. Invece molto spesso le libere università decidono di insegnare anche cose che non servono, a me non piace questa espressione, cose che sono soprattutto un'autorappresentazione degli accademici, invece che preoccuparsi di offrire dei curricula che possano essere interessanti davvero per le esigenze dei potenziali studenti. E questa è una caratteristica soprattutto italiana, perché in tutti i paesi simili all'Italia, quindi paesi in cui l'università è regolata dallo Stato, in tutti i paesi in cui è stata data l'autonomia si è avuto anche un grande rafforzamento delle capacità di indirizzo da parte del centro del sistema. Da noi questo non c'è stato, e quindi c'è questa strana dinamica: ti do l'autonomia, tu fai delle cose che non mi piacciono, tre anni dopo te ne tolgo un pezzo, tu ti lamenti perché ti ho tolto un po' di autonomia, te la ridò, tu ricominci a fare delle cose che chiaramente non vanno bene, non funzionano, e allora io rientro intrusivamente a regolare ulteriormente l'autonomia. Diciamo che l'autonomia funziona se è uno dei due poli di un sistema in cui anche il centro del sistema è capace di fare il mestiere, che è quello di indirizzare l'autonomia. Dopo le colpe della politica e quelle dell'accademia, voi sottolineate le colpe delle parole, ne citate alcune: mercato, competizione, gestione manageriale, eccellenza, merito, valutazione, parole che possono diventare dei miti per l'appunto per alcuni professori che la pensano in un modo e per altri invece diventano dei tabù da cancellare in tutti i modi. Ecco, questa contrapposizione porta sostanzialmente alla paralisi poi nell'università. Da noi le parole vengono utilizzate sempre in un'accezione ideologica, quindi una parola o è buona o è cattiva. Facciamo un esempio di una parola che va molto di moda, no? L'eccellenza. No? Tutti, l'eccellenza che cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema deve diventare super meritocratico e che solo le eccellenze devono essere premiate. Chiaramente con un ragionamento di questo tipo che cosa succede? Scattano i meccanismi di interpretazione ideologica, per cui da una parte abbiamo quelli che si rifanno delle concezioni individualistiche del mondo, che dicono che l'eccellenza è una cosa bellissima e giustissima e che solo i migliori devono essere premiati, dall'altra parte abbiamo chi legittimamente ha una concezione egalitaria del mondo che dice che no, questa parola significa semplicemente che si sta perseguendo un'università elitistica. Uno litiga sulle parole e alla fine le cose non vengono fatte e paradossalmente noi continuiamo ad avere un sistema che ha delle eccellenze, non solo a livello di ricerca internazionale ma anche rispetto a una delle missioni dell'università che è sviluppare i propri territori. Abbiamo da un altro punto di vista il sistema europeo più ingiusto per quanto riguarda il diritto allo studio, perché questo è un sistema in cui non si consente davvero a tutti coloro i quali potrebbero correre per una buona istruzione universitaria di farlo. Questa ideologia delle parole, questo uso ideologico delle parole è terribile, perché alla fine, e su questo la politica ha alcune responsabilità, perché poi vengono usate in modo ideologico anche dai politici, e quindi assistiamo a questi dibattiti senza senso. Vi faccio un esempio: dire che il nostro sistema deve perseguire l'eccellenza non vuol dire nulla, perché un sistema universitario non serve solo per perseguire l'eccellenza nella ricerca, ma serve anche per aumentare la qualità del capitale umano della società, che significa dare istruzione, una buona istruzione superiore a un numero elevato di cittadini, anche a coloro i quali non sono per diversi motivi dotati per perseguire l'eccellenza nella ricerca. Grazie a Giliberto Capano, autore con Marino Regini e Matteo Turri di Salvare l'Università Italiana. Buona serata. La ringrazio molto. L'università dunque comporta molte sfide, da sola non basta più, certamente la laurea non può essere più considerato un risultato acquisito, il processo di formazione dovrà durare tutta la vita, e queste problematiche affronta Giovanni Lo Storto, che è anche egli un esperto perché è il direttore generale dell'Università LUISS di Roma. Nel libro Ero studente, il desiderio di prendere il largo, pubblicato da Rubettino, 114 pagine, 13 euro, questo è un libro interessante perché parla della prospettiva del life learning da due punti di vista: quello dell'esperto nella prima parte, che ci dà le parole chiave per capire di cosa si parla quando si ricorre a questa espressione, che richiama appunto una formazione che si deve basare su nuove parole, quelle che egli indica nell'indice: osservare, imparare, orientare, provare, allargare, apprendere, condividere, rallentare, desiderare. L'altro punto di vista è quello degli interessati, ossia degli studenti, dei ragazzi che hanno seguito un tentativo di formazione diversa, così lo definisce l'autore. Sono studenti che si sono prestati a esperienze legate al concetto di servizio e di sacrificio, che qui raccontano le proprie storie. Questi ragazzi, scrive l'autore, hanno conosciuto la diversità sul campo, hanno imparato che guardare negli occhi una persona è importante, perché l'altro in realtà è noi. E la morale del libro è descritta da un grande economista, Jean-Paul Fitoussi, nell'epilogo, dove lo studioso osserva che dobbiamo evitare di cadere nella trappola di mettere degli paraocchi ai nostri studenti, specializzandoli in conoscenze di cui si sa che prima o poi diventeranno obsolete, ma dovremmo aprirle al mondo andando incontro agli altri. E il life learning diventa così un metodo privilegiato privilegiato per la riuscita della loro vita professionale e allo stesso tempo per l'accrescimento del loro benessere. E a questo punto interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Però pure una nuvola di granchio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Al cinema in queste settimane sta avendo un meritato successo il film Dunkirk, il film scritto e diretto da Christopher Nolan sull'evacuazione che avvenne a Dunkirk, per dire alla francese, l'evacuazione delle truppe inglesi che erano rimaste lì intrappolate. A chi voglia ricostruire la vicenda segnalo il libro di Franco Cardini e Sergio Valzania, Dunkirk, 26 maggio 4 giugno 1940, storia dell'operazione Dynamo, è pubblicata da Mondadori, 238 pagine, 22 euro. Si comincia qui con un invito alla lettura che inquadra la Seconda Guerra Mondiale, di cui Dunkirk fu uno degli episodi principali nelle vicende storiche che spiegano quel terribile conflitto. Un conflitto frutto di tante spinte sul quale Dunkirk svolse un ruolo fondamentale, perché spiegano gli autori, di fronte alle derive continentali che erano in movimento all'avvicinarsi della metà del secolo, l'episodio di Dunkirk può apparire piccola cosa, ma segnò un'inversione di tendenza con molte probabilità decisiva nella determinazione all'entrare in partita armi alla mano di quelli che Winston Churchill definiva i popoli anglosassoni. Dopo l'operazione che aveva avuto luogo nel 1809, in cui 20.000 uomini avevano lasciato la Corugna in fuga da Napoleone, e quella del 1915 a Gallipoli, in cui 125.000 soldati inglesi erano stati reimbarcati fuggendo al blocco della Turchia, quello di Dunkirk fu la manovra anfibia più importante fino all'epoca realizzata. In quei 9 giorni infatti furono evacuati almeno 315.000 uomini, di cui 180.000 inglesi. Se l'operazione non fosse riuscita, spiegano gli autori, difficilmente il Regno Unito avrebbe potuto proseguire nella guerra e probabilmente neppure Winston Churchill sarebbe rimasto a lungo primo ministro britannico. E naturalmente qua si sottolinea l'elemento forse più famoso presso l'opinione pubblica, sul quale insiste molto ovviamente il film, e cioè l'intervento dei navigli privati, delle barche che dall'Inghilterra accorsero per raccogliere i soldati, che così gli autori descrivono. Si tratta dell'evento più ricordato dell'intera vicenda, esso le conferì larga parte dell'alone mitico che la circonda. Facciamo qualche passo avanti nel tempo e arriviamo alla fine della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, di cui abbiamo due interessanti testimonianze in due titoli di altrettanti tra i maggiori registi italiani del Novecento, cioè Steno e Roberto Rossellini. Il primo, Steno, ossia Stefano Vanzina, vissuto tra il 1917 e il 1988, famoso umorista, sceneggiatore e regista di circa 70 film, alcuni celeberri come Guardie e Ladri, con Totò, che direi con Monicelli, ha scritto un libro che esce adesso, Sotto le stelle del 44, un diario tenuto fra il primo e il 31 ottobre appunto di quell'anno importante, decisivo, e che venne ritrovato dopo la sua morte dalla moglie. Viene pubblicato da Rubettino con il Centro Sperimentale di Cinematografia, 192 pagine, 12 euro. Steno, dopo l'8 settembre, era scappato da Roma per Napoli, poi tornò nella capitale nel giugno del 44 e qui ci descrive la Roma di quelle settimane, anche con molti riferimenti iconografici, per esempio testate e giornali dell'epoca. E naturalmente non mancano i riferimenti al mondo dello spettacolo e della società italiana, per esempio quando osserva il volto segaligno e ben rasato di Sergio Tofano e il suo abbigliamento. E Steno mette in parallelo questo profilo con il benessere della borghesia italiana, un po' arido, un po' cinico e anche un po' crepuscolare in questi 20 anni. Quei tipi rappresentano il tacito e blando disinteresse borghese all'imperialismo. E si spiega dunque la definizione che i figli di Steno, Enrico e Carlo Vanzina, danno nella prefazione del padre, che fotografano come un vero intellettuale e artigiano dell'umorismo. L'altro regista, Roberto Rossellini, di cui esce Il mio dopoguerra, pubblicato dalle edizioni dell'Asino, 68 pagine, 8 euro, curato da Goffredo Foffi. Queste sono le memorie apparse in tre numeri dei Cahiers du Cinéma nel 1955-56, poi tradotti su Cinema Nuovo e qui riproposti con le note redazionali, alcune note ulteriori e delle interviste successive all'autore. Sono pagine piuttosto sul cinema che sulla storia. Nel 1944, scrive Rossellini, tutto era distrutto in Italia, compreso il cinema, ma questo, paradossalmente, secondo il regista, lasciò mano libera agli autori, proprio perché non c'erano più delle società di produzione che potevano esercitare delle forti pressioni. Scrive, qualsiasi progetto andava bene, fu questo stato di cose a permetterci di intraprendere lavori a carattere sperimentale. Ci si accorse ben presto, d'altronde, che il film, malgrado tale carattere, divenivano opere importanti tanto sul piano culturale che su quello commerciale, e in condizioni simili che cominciai a girare Roma, città aperta. E quindi nacque così il successo del cinema italiano, un fatto di film, spiega Rossellini, che costavano pochissimo e ammortizzavano le spese facilmente grazie ai mercati esteri, in particolare l'America, dove film come Roma, città aperta e Paesà erano stati accolti trionfalmente dalla critica e dal pubblico più preparato. E naturalmente si manifestò però subito il rischio opposto a quello che era stato evitato nel 1944, ossia che le case di produzione, rinascendo, ricominciassero a esercitare la loro pressione. Era fatale, scrive Rossellini, che riorganizzato e controllato dai vecchi finanziatori che erano fuggiti o da finanziatori nuovi che si richiamavano ai principi di Hollywood, il cinema italiano ripiombasse nella estetica tipica dell'industria americana. E sentiamo da una nota del 52 come Rossellini descriveva la propria opera. Sono un realizzatore di film, non un esteta, e non credo che saprei indicare con assoluta precisione che cosa sia il realismo. Posso dire però, come io lo sento, qual è l'idea che me ne sono fatta. Forse qualcuno potrebbe dire meglio di me. Una maggiore curiosità per gli individui, un bisogno, che è proprio dell'uomo moderno, di dire le cose come sono, di rendersi conto della realtà, direi, in modo spietatamente concreto, conforme a quell'interesse, tipicamente contemporaneo, per i risultati statistici e scientifici. Una sincera necessità, anche, di vedere con umiltà gli uomini quali sono, senza ricorrere allo stratagemma di inventare lo straordinario. Una coscienza di ottenere lo straordinario con la ricerca. Un desiderio, infine, di chiarire se stessi e di non ignorare la realtà, qualunque essa sia. Ecco perché nei miei film ho cercato di raggiungere l'intelligenza delle cose, dando loro il valore che hanno. Assunto non facile, anzi ambizioso e tutt'altro che lieve, perché il dare il vero valore a una qualsiasi cosa significa averne appreso il senso autentico e universale. Un altro testo interessante su quei mesi drammatici è quello di Giovanni Devoto, di cui esce Milano Davos 1942-1944, diario di un dirigente industriale progressista, pubblicato da Guerini e Associati, 348 pagine, 32 euro. Devoto era marito di un erede Falck e lavorava col suocero nelle acciaierie della sua famiglia. Questo libro, curato dal figlio Gianluca, matematico e appassionato di argomenti militari, racconta la storia del padre di Giovanni. Breve, perché appunto Giovanni Devoto morirà giovanissimo a 41 anni nel fatale 1944 di malattia. E qua viene riproposto il diario tenuto tra la fine del 42 e il settembre del 44. Questo diario viene definito dal prefatore Giulio Sapelli come la storia di un'anima turbata dall'avanzata della guerra, ma soprattutto dal significato che essa assume. Devoto è un dirigente d'industria di fede liberal-socialista che rafforza in quei mesi e in quelle vicende la sua ostilità al fascismo e soprattutto al nazismo. E a questo punto... Il confettino. La scuola è ripresa ormai in tutte le regioni e quindi segnalo agli studenti, soprattutto a quelli preoccupati dalla matematica, il libro di Germano Pettarin, che insegna matematica nelle scuole e all'Università di Udine. Si intitola La matematica fa schifo, illustrato da Giulia Orecchia e pubblicato da Einaudi, 138 pagine, 12 euro, ed è un romanzo ambientato a Cifralia, il paese dei numeri, dove Abacone prenderà il posto del vecchio re Caos, provocando la reazione dei numeri. Ai genitori segnalo un libro che si lega a uno spunto di attualità che cadrà la settimana prossima, quando il 27 ricorderemo il 60° anniversario della scomparsa di uno dei più importanti giornalisti italiani, Leo Longanesi, fondatore di riviste che hanno segnato il loro tempo come Omnibus e Il Borghese, e poi fondatore della casa editrice che porta il suo nome e che pubblica adesso uno dei titoli più significativi di Longanesi, La sua signora, 226 pagine, 20 euro, che vede la prefazione di Indro Montanelli, che riconobbe in Longanesi uno dei suoi pochi maestri, e che spiega, Montanelli, la ritrosia dell'autore a scrivere libri di una certa lunghezza, cosa che non voleva fare, come gli aveva spiegato lo stesso Longanesi, per non cadere nella banalità. E uno dei suoi epigoni contemporanei, nonché appassionato studioso di Longanesi, cioè Pietrangelo Buttafuoco, nella postfazione vede in Longanesi colui che svela la tragedia della commedia nazionale, riconoscendogli la straordinaria capacità di individuare le parole per descrivere la modernità dell'Italia. Questo libro uscì postumo e quindi anch'esso celebra i suoi 60 anni e raccoglie le intuizioni, come dice Montanelli, di questo bizzarro editore inedito che non si concedeva abbandoni, che amava appassionatamente tutto ciò che diceva di odiare e traduceva nelle più divertenti bestemmie la più inguaribile malinconia. Sono appunti, immagini, momenti che ci confermano la straordinaria capacità di Longanesi di sintetizzare in poche pagine un evento o un personaggio, cogliendone la realtà autentica, come quella che fotografa il protagonista di una cena elegante a Milano. G, le sue idee si accendono, crepitano, poi si placano alla seconda portata. Oppure, detto di se stesso, mentivo, ma il personaggio che rappresentavo era sincero. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.